questo martedì 10 luglio intanto uno sguardo ai titoli che sono declinati un po' sulla situazione finanziaria europea. Il Sole 24 Ore, Spagna e Italia, tassi sotto tiro, questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, salva stati, sfida sui tempi. Repubblica, scudo anti-spread, falchi sconfitti, passa la linea Monti. La Stampa invece, subito la legge elettorale, è l'appello del Presidente della Repubblica Napolitano. Libero, condannati a Monti. Il Messaggero, Europa divisa sullo scudo. L'Unità invece torna sulle polemiche ieri dopo gli strascichi, dopo le polemiche Monti-Squinzi, quelli che la democrazia non conviene. Questo è il titolo dell'Unità. Il Giornale invece se la prende con la Rai. In Rai 700 truccatori, ma quale spending review? Il Fatto Quotidiano invece, non disturbate i manovratori, è sempre la polemica nei confronti, dopo la polemica Monti-Squinzi, cioè i manovratori secondo il Fatto sono Monti appunto e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ora tagli alle tasse, invece il titolo d'apertura dell'Unità, Draghi, bene la spending review, serve una seconda fase, mentre il Manifesto critica i tagli alla scienza, la purga dei cervelli, la spending review aumenterà le tasse per gli universitari penalizzati fuori corso, studenti, lavoratori e stranieri che saranno disincentivati a proseguire gli studi. Questa è l'apertura del Manifesto. Da cosa voglio partire, visto che si parla di spending review? Alcune chicche che si trovano sui giornali, su tagli che ci sono stati, e questo ne abbiamo parlato durante tutta la settimana, e tagli che invece non ci sono stati. Parto da un articolo del Fatto Quotidiano che per la verità riprende un articolo uscito su Libero, credo, domenica. Il Fatto Quotidiano, pagina 7, racconta la vicenda di un particolare presidio medico che c'è all'interno di Palazzo Chigi. 3 milioni l'anno per curare il governo. Sara Nicoli racconta: nessuna riduzione di costi per l'ambulatorio di Palazzo Chigi. Dovete sapere, cari italiani, che c'è questo ambulatorio all'interno di Palazzo Chigi che nemmeno Mario Monti si è sentito di riportare a proporzioni più modeste. È una struttura sanitaria di alta eccellenza, veramente esclusiva. È l'ufficio del medico competente, cioè l'ospedalino interno a Palazzo Chigi. Un ospedalino, no? Visto che si parlava di tagliare i mini ospedali, questo è un ospedalino piccolino. 12 medici specialisti, 9 infermieri, 7 impiegati, 5 funzionari, 8 collaboratori, un numero imprecisato di consulenti che hanno a cuore chi e che cosa? Hanno a cuore la salute dei 1300 dipendenti di Palazzo Chigi, vale a dire la presidenza del Consiglio, una struttura che c'è da anni, costa la macchina dello Stato, fa sapere il Fatto, 3 milioni di euro l'anno, a cui vanno aggiunti i costi delle visite che vengono intascati dai medici, comunque a libro paga di Palazzo Chigi. Tra l'altro, grazie a un comma inserito dal governo Prodi nella finanziaria del 2007, i medici che lavorano nel piccolissimo nosocomio all'interno di Palazzo Chigi possono anche esercitare attività ambulatoriali esterne, una cosa invece vietata ai colleghi che lavorano nel pubblico. I presidi in realtà sono 2, fa sapere il Fatto. Uno è proprio dentro Palazzo Chigi, al secondo piano, circa 5 stanze, lavorano lì anche i funzionari addetti all'organizzazione della struttura. Poi c'è una sede distaccata in un altro palazzo della Presidenza del Consiglio, a Via della Mercede, dove ci sono altri ambulatori. Per un dipendente di Palazzo Chigi basta prendere appuntamento, la visita è garantita a breve tempo. Il prezzo è politico, non so, una visita oculistica può costare anche solo 50 euro. Una struttura che costa, come detto, 3 milioni di euro, la metà dei quali vanno circa per gli stipendi. Sono 12 medici assunti con il grado statale di dirigenti di seconda fascia, percepiscono uno stipendio di 81.000 euro l'anno, gli infermieri specializzati 33.000, gli impiegati 27.000, i collaboratori complessivamente costano 798.000 euro l'anno. Insomma, questa è la struttura, questo mini ospedale, mini presidio ambulatoriale che c'è all'interno di Palazzo Chigi e che serve alla cura dei 1300 dipendenti. Ovviamente il Fatto Quotidiano, come Libero un paio di giorni fa, diceva si è toccato e si toccano e si accorpano tutti i mini ospedali, o almeno questo si voleva fare, poi non si è fatto, ma si tagliano i posti letto, si riducono, fa sapere il Ministro della Salute, di 8 miliardi i fondi alla sanità nei prossimi anni, con i governatori sul piede di guerra. Ieri avevamo anche Luca Zaia, ma anche altri, Enrico Rossi, abbiamo avuto Formigoni settimana scorsa, dice non si tocchi la sanità, ma questo presidio ambulatoriale a Palazzo Chigi invece non è stato toccato. È stato toccato invece lo stipendio del sovrintendente alla Scala di Milano, Stefan Lisner, dopo la polemica che è stata portata avanti dal punto di vista dei giornali, soprattutto da Il Giornale. E alla fine un taglio c'è stato, il Corriere della Sera mette la notizia a pagina 39, nella pagina degli spettacoli, nuovo taglio ai compensi di Lisner, non solo il 10% in meno anche sulla parte fissa dello stipendio, ma c'è anche un taglio del 20% su quella variabile, in tutto fanno 75.000 euro di decurtazioni legate al pareggio di bilancio. Finisce così, dopo un mese di polemica, il botta e risposta tra il sindaco di Milano Pisapia e il governatore della Lombardia Formigoni, dopo le richieste di equità del primo e i tweet del secondo sulla necessità di spending review. Insomma, Lisner, come ha commentato questa vicenda, per 7 anni sono riuscito con qualche difficoltà a tenere la politica fuori dalla Scala, ora è entrata. Lisner che dice: sono al centro di uno scontro tra Formigoni e Pisapia, è un attacco a me e alla giunta comunale. Mentre invece sul Giornale questa polemica, che è stata cavalcata per giorni, viene chiosata così: la farsa di Pisapia, la Scala tagliuzza appena 30.000 euro. Lo stipendio faraonico del sovrintendente Lisner ridotto soltanto del 20%, e lui fa pure l'offeso dicendo è colpa della politica. Viene chiamato e definito un labor lime, cioè un lavoro di lima, cioè un tagliuzzi. Nell'articolo di Marta Bravi che trovate a pagina 6, i tagli al sovrintendente Lisner. Il numero uno del teatro, fa sapere il Giornale, ha anche mantenuto un premio da 300.000 euro. Insomma, tagli che secondo il Giornale sono stati dei taglietti e dovevano essere dei tagli un po' più pesanti. In ogni caso, noi ci fermiamo 5 minuti e riprendiamo dalle notizie europee di politica italiana. Allora, come detto, alle 7:33 minuti molti giornali dedicano tante pagine sulla situazione finanziaria internazionale. Ieri c'è stato l'Eurogruppo, su questo invito la lettura degli articoli sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, tra l'altro, che esce oggi con un libro con 50 centesimi in più, La bussola per salvare i tuoi risparmi. Insomma, come orientarsi in questa situazione di crisi finanziaria. Crisi finanziaria che ieri è stata certificata anche col fatto che sono risaliti gli spread d'Italia e Spagna. Questo è il titolo di apertura del Sole: Spagna-Italia, tassi sotto tiro, spread e tassi spagnoli e italiani in salita, i bonus sono saliti come rendimenti al 7%, i BTP italiani al 6%, questo alle aste di Germania e Francia. Borse giù, tranne Milano. Insomma, una situazione finanziaria difficile, nonostante ieri, per esempio, il governo italiano abbia ottenuto sicuramente all'Eurogruppo un successo, il successo che è stato confermato dopo il recente Consiglio europeo. La vicenda sugli anti-spread, sapete che il governo italiano e Mario Monti si era speso per far passare questa linea di attivare il fondo salva stati per primario e secondario sui titoli di Stato, per premiare quegli stati che siano rispettosi, virtuosi rispetto al patto di stabilità. E questa linea, sulla quale c'erano state le resistenze anche ultime soprattutto della Finlandia, ma anche dell'Olanda, sono state superate ieri all'Eurogruppo, e dunque questo utilizzo del fondo salva stati in chiave anti-spread ci sarà. Antispread, Monti ottiene la conferma, questo è il titolo dell'articolo a pagina 6 del Sole, con Isabella Bufacchi che racconta proprio di questo strumento mirato alla riduzione del costo del rifinanziamento del debito pubblico dei soli paesi virtuosi, che si aggiungerà dunque agli interventi di puro salvataggio degli stati in difficoltà. Proprio per rimarcare questa sostanziale differenza non imporrà condizioni o impegni aggiuntivi, e questo è stato ribadito ieri all'Eurogruppo. È stato dunque incassato da Mario Monti, partecipante alla riunione nelle vesti del Ministro dell'Economia, e uscito prima della conclusione dell'incontro. D'altronde, fa sapere Il Sole, Monti è arrivato non a mani vuote a Bruxelles, ma è arrivato appunto con la spending review approvata dal Consiglio dei Ministri, con misure e cifre dettagliate. Insomma, ha voluto dimostrare che l'Italia, dopo aver blindato i conti pubblici e il pareggio di bilancio, ha varato riforme strutturali importanti per la crescita, dal lavoro alle liberalizzazioni. E su questo c'è stato anche l'apprezzamento del presidente della BCE, Mario Draghi, sulla spending review. Anche il Corriere su questo dedica pagina 3, cioè sull'Eurogruppo, la lunga tela di Monti per vincere le resistenze di Berlino e alleati. Gli alleati, appunto, Olanda e Finlandia, le cui resistenze, scrive Marco Galluzzo sul Corriere, sembrano ormai cadute. Dunque questo meccanismo di stabilizzazione degli spread è ormai un dato acquisito, un qualcosa alla quale si era opposto anche Angela Merkel, ma dalla quale è uscita però sconfitta come linea di politica finanziaria all'ultimo Consiglio europeo. Questo per quel che è successo in Europa, mentre i giornali però non dimenticano gli strascichi della polemica, della dura polemica che c'è stata a distanza con le dichiarazioni del presidente di Confindustria Squinzi, e dall'altra parte il giorno dopo la replica di Monti, che ha detto sulle frasi di Squinzi: attenzione, perché queste frasi fanno salire lo spread. Ieri il presidente di Confindustria, che era un'assemblea degli industriali a Lucca, è intervenuto nuovamente su questo tema. Nicoletta Picchio, a pagina 7 del Sole, il titolo è: Squinzi, lo spread non dipende da me. Non me l'aspettavo, sono polemiche basate su frasi decontestualizzate dal discorso generale, il cui senso era diverso. Questa l'esordio di ieri di Squinzi, che è tornato questa polemica generata da un faccia a faccia con la leader CGIL Camusso sabato. Squinzi ha precisato: non sono le mie dichiarazioni che fanno salire o scendere lo spread, non credo di essere così influente, alcune mie frasi sono state estrapolate e usate strumentalmente, purtroppo a incidere sullo spread sono le condizioni dei mercati e i nodi del paese. E poi ha ribadito: sono convinto di quello che ho detto, nel complesso generale lo confermo, abbiamo apprezzato il decreto sviluppo, anche se ha qualche mancanza, ad esempio nel campo della ricerca. Allo stesso modo abbiamo apprezzato fin dal primo momento e abbiamo accettato la riforma delle pensioni, anche se sicuramente è onerosa per le imprese. Insomma, il governo sta facendo delle cose buone, ma c'è ancora tanto da fare. Apprezziamo quello che sta facendo l'esecutivo, ma c'è tanto ancora da fare. Questa, diciamo, per quel che riguarda la ricomposizione dialettica. In realtà i giornali sviluppano ancora questo tema. La linea tenuta da molti giornali è lecito criticare ciò che sta facendo un esecutivo? Su questo sono molto duri, per esempio, oggi sia l'Unità, per il secondo giorno consecutivo, anche ieri, con un editoriale ancora del direttore Claudio Sardo, ma anche in prima pagina il titolo è questo: quelli che la democrazia non conviene. E le foto sono di Fabrizio Cicchitto, Montezemolo e Tronchetti Provera. Attacchi a Squinzi da Montezemolo, Tronchetti e Cicchitto per le critiche al decreto. E lui risponde: non muovo io lo spread. Tra l'altro l'Unità mette a pagina 3 un'intervista al presidente emerito della Corte Costituzionale, Piero Alberto Capotosti, che, intervistato da Marcella Ciarnelli, dice: la Costituzione viene prima dei mercati. Possiamo rispettare, data la situazione, la signoria dei mercati, ma per un tempo breve e determinato, altrimenti si rischia un sistema non più democratico. È indubbio che le leggi economiche hanno una particolare cogenza di fatto, dice Capotosti. Non è un caso che normalmente, se c'è da prendere una decisione che può influire sulla borsa, lo si fa a mercati chiusi per non condizionarli. A mio avviso non c'è però alcun divieto a commentare o a illustrare il proprio pensiero fuori di polemica, iniziative importanti come quelle di questi giorni. Insomma, è sempre bene presente, aver bene presente quanto sia importante evitare le strumentalizzazioni di operatori esteri o interni, magari supportate da autorevoli prese di posizione. Ribadisce Capotosti: tutti debbono avere la consapevolezza che le critiche sono legittime. Su questo tema si è scatenato invece il Fatto Quotidiano, molto più duro. Beh, già da giorni il Fatto aveva preso di mira anche per la vicenda delle famose telefonate, del caso della trattativa Stato-mafia, anche il Quirinale. Il titolo del Fatto Quotidiano è molto duro: non disturbate i manovratori. E i manovratori, secondo il Fatto, sono il presidente Monti e il presidente della Repubblica Napolitano. C'è anche un editoriale dal titolo La Repubblica dei Corazzieri di Antonio Padellaro, vale a dire il direttore del Fatto, che scrive così: e così anche il presidente di Confindustria sta assaggiando il nodoso bastone del regime tecnico e dell'informazione unica. Reo di aver espresso qualche perplessità di troppo sui tagli del governo Monti, ieri mattina il povero Squinzi si è preso una bella ripassata da Repubblica e Corriere della Sera, che dopo averlo accusato di essere diventato rosso come la Camusso della CGIL, lo hanno ammonito a non provarci più. Comprensibile l'immediata ritrattazione di Mr. Mapei, che dopo aver detto quello che ha detto sulla macelleria sociale in diretta televisiva ha detto di essere stato male interpretato. Come dire, faccia il bravo, perché poteva andargli peggio, visto che con le sue incaute dichiarazioni ha fatto salire lo spread. Questa è la frase di Monti. Ormai è tutto un monitare nella Repubblica dei Corazzieri. Insomma, il Fatto Quotidiano critica, dice, non si può dire nulla e criticare, altrimenti si interviene subito dall'alto. Insomma, su questo tema trovate ancora tanti commenti, come ci sono commenti sui tagli, la spending review. La notizia è che il ministro della sanità Balduzzi ha dato alcune cifre. Sono 7.000 i posti letto che saranno da tagliare, da eliminare nei prossimi anni negli ospedali, e sommati alle manovre del governo precedente Berlusconi, di fatto sono 7,9 miliardi, quasi 8 miliardi in meno nel settore sanità nei prossimi anni. Tra l'altro, sul tema tagli, ci sono due articoli che vi voglio segnalare. Il primo è su Libero di Fosca Binker, cioè Franco Bechis, il vice direttore, che critica dicendo: i tagli sbandierati sono tutti una finta. Quanto porterà nelle casse dello Stato il taglio alle province? 0 euro. Quanti il taglio delle auto blu? 0 euro. Quanto la scure sui consigli di amministrazione delle società pubbliche? 0 euro. E la famosa falciatrice dei dipendenti pubblici, quanto si risparmierà? 0 euro. Insomma, questo è l'esordio dell'articolo molto polemico di Franco Bechis. Anzi, la vicenda per esempio più clamorosa, quello del taglio dei dipendenti pubblici. In realtà, dice Bechis, a essere tagliate sono le piante organiche, cioè il numero di dipendenti che ministeri, enti pubblici ed enti locali possono avere teoricamente. In parte i costi di struttura, che sono più reali. La stampa nel weekend si è esercitata con la cacciata di 24.000 dipendenti pubblici. Il dato in effetti è vero: 11.000 sono dipendenti dello Stato centrale, 13.000 dipendenti degli enti locali. Sarebbero in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche ridotte, perché in moltissimi casi le piante organiche sono superiori del 15-20%, quindi il taglio del 10% previsto dal decreto non comporta nessuna riduzione reale dei dipendenti, cioè in realtà si riporta alle piante organiche. Insomma, questo per dire che non ci sono tagli. Invece, per il Manifesto ci sono dei tagli sbagliati, tanto che il titolo della prima pagina è questo: la purga dei cervelli. C'è anche l'articolo di Giorgio Parisi, che è un fisico, in prima pagina del Manifesto. Poi continua pagina 5: niente scienza, siamo italiani, accusa Parisi. Meno di una settimana fa si era sparsa la notizia che il bosone di Higgs era stato scoperto al CERN di Ginevra. Festeggiamenti, congratulazioni in particolare a Fabiola Gianotti, la portavoce di uno dei due esperimenti. Ora però la notizia di una grave ombra: il governo ha deciso di tagliare in maniera importante i finanziamenti agli enti di ricerca, con una particolare attenzione all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha un ruolo di supporto agli esperimenti effettuati dal CERN. Come non condividere l'amarezza dunque del presidente Fernando Ferroni, che ha dichiarato: abbiamo ricevuto il premio per la scoperta del bosone di Higgs, un taglio del 10% del personale tecnico e amministrativo, un taglio di bilancio che ci impedirà di continuare a essere protagonisti nel contesto internazionale. Sappiamo già come andrà a finire, scrive Parisi. I tagli incideranno in gran parte sull'unica voce di spesa facilmente riducibile, le assunzioni dei giovani ricercatori al posto del personale che va in pensione. Chi potrà scapperà all'estero, impoverendo sempre di più l'Italia dal punto di vista intellettuale. Gli altri che rimarranno in Italia dovranno accettare, sempre che lo trovino, un lavoro sottoqualificato. Le nostre industrie non investono nell'innovazione e non sanno che farne di dottorati. Questo il grido d'allarme di Giorgio Parisi sul Manifesto in prima pagina. La politica invece, la legge elettorale torna in primo piano, e poi c'è una spettacolare intervista a Umberto Bossi, per la prima volta parla al Fatto Quotidiano, tra poco. Allora, per quanto riguarda la politica, io trovo da sempre che le pagine più noiose siano quelle legate alla discussione sulla legge elettorale, perché io credo che a quasi nessun italiano interessi, se non a chi si interessa veramente di politica, anche se la discussione sulla legge elettorale è una discussione importante, perché il sistema con cui si vota è poi il sistema che genera le maggioranze in Parlamento. Ieri Giorgio Napolitano, il capo dello Stato, ha mandato una lettera ai presidenti di Camera e Senato Fini Schifani per dare la scossa, scrive così il Corriere della Sera con Dino Martirano a pagina 8. Cioè, come dire, che cosa hanno fatto finora i partiti? Si è discusso tanto di questo porcellum, cioè l'attuale legge elettorale, nella quale si vota senza neanche sapere chi si vota, perché le liste le fanno i partiti. Si diceva va cambiato, e cosa hanno fatto in questi mesi? Ecco il senso dell'invito di Giorgio Napolitano, come dire, legge elettorale non rinviabile, si proceda anche a maggioranza. Questo è anche il senso del messaggio di Napolitano, anche rimettendo a quella che sarà la volontà maggioritaria delle Camere la decisione sui punti che non risultassero oggetto di una più larga intesa preventiva e rimanessero quindi aperti a un confronto conclusivo. Cioè, come dire, non mettetevi necessariamente d'accordo nelle stanze dei partiti sulla nuova riforma elettorale, ma andate piuttosto anche alla Camera, vedete dove c'è la maggioranza, ma cambiate in maniera urgente, non più rinviabile, perché tra meno di un anno si va a votare e quindi ci vuole del tempo anche per poi fare un iter parlamentare di modifica di una legge elettorale, quindi bisogna muoversi e fare in fretta. E su questo subito è nato quello che la stampa giustamente identifica con Ugo Magri a pagina 5, il grande scaricabarile tra PDL e PD. Nei partiti c'è chi accusa: è stallo perché i leader non ci hanno messo la faccia. Inizierà, cari italiani, il classico teatrino del dire: noi siamo pronti a cambiare la legge elettorale. La classica dichiarazione in questi casi, strano che non sia ancora uscita: noi, se c'è l'accordo, siamo pronti a cambiarla in 15 giorni. Qualcuno sicuramente dei leader di partito l'avrà già detto ieri. Ma che è un modo, come dire, noi la vogliamo cambiare, ma le resistenze politiche ci sono dall'altra parte. In genere questo porta a uno stallo per cui non succede niente. Il capogruppo del PD Dario Franceschini a pagina 10 di Repubblica fa un'intervista a Giovanna Casadio dicendo: in aula si vedrà finalmente chi fa sul serio e chi ostacola. Poi esprime ancora dubbi, anzi scetticismo, nei confronti della reintroduzione delle preferenze, che sono belle da dire ma drammatiche da applicare, dice Franceschini. Non viviamo nel mondo delle favole. L'ultima volta che si votò le politiche con le preferenze fu nel 92. I miliardi spesi in quelle campagne elettorali sono finite in buona parte nell'inchiesta di Tangentopoli. Le preferenze comportano costi elevatissimi con tutti i rischi che ne seguono. Non a caso in nessun grande paese d'Europa si vota con le preferenze. La via maestra, dice Franceschini, sono invece i collegi uninominali che consentono agli elettori di scegliere la persona da cui far rappresentare il proprio territorio. Comunque la domanda, voi del PD volete davvero cambiare il Porcellum? Assolutamente sì. Abbiamo contrastato la legge porcata quando fu approvata con un colpo di mano nel 2005. Non abbiamo mai avuto i numeri, né li abbiamo ora per cambiarla, ma va cambiata. Chi invece dice, ma la legge elettorale così com'è può anche andare bene, è Umberto Bossi, che fa la prima intervista al Fatto Quotidiano, pagina 9, in un'uscita che ieri ha fatto in una festa della Lega, in un paesino della Bassa Bresciana, Castelcovato, ed è stato avvicinato da Davide Vecchi e fa un'intervista. Qui comando io, non Bobo Maroni. Umberto Bossi parla della Lega. Tutto il casino l'avete montato voi giornalisti, la magistratura, ma poi quello lì, cioè Belsito, non è stato arrestato. L'Usi della Margherita è finito in carcere, il nostro amministratore no. Certo, potevano informarci, eravamo al governo, questo qui ci rubava i soldi e nessuno ci ha detto niente. Questa è un po' una stilettata all'ex ministro dell'interno, cioè Maroni. E poi sentite ancora su Maroni, cancellare Pontida è una cazzata dei giornali, è come il va pensiero, cose sacre, intoccabili per ogni leghista. E ancora sull'IMU, lei l'ha pagata? Bah, era una ratina. Ma se devo dire di non far pagare le tasse, lo dico, altro che IMU. E poi ancora Umberto Bossi che dice la Lega sono io, decideremo io e Maroni. Io e Roberto decideremo tutti insieme, sono il presidente, siamo uguali. Il mio grande errore è non essermi candidato e non essere più segretario. Insomma, Umberto Bossi che vuole combattere. Riguardo invece al figlio, Renzo, erano tutti d'accordo, hanno aiutato tutti a farlo vincere. Quando è successa la vicenda gli ho dato 4 ceffoni, ma si metterà a posto perché alla fine non ci sarà nulla. Certo è stato difficile. Certo, Umberto Bossi forse non ha letto le intercettazioni che oggi il Sole 24 Ore pubblica riguardo all'ex tesoriere Belsito. A pagina 14 le trovate, la firma è Claudio Gatti, che credo oggi inizia anche un programma d'inchiesta sulla 7 e farà ascoltare queste intercettazioni, perché Claudio Gatti dice, beh, Bossi ha indirettamente accusato l'ex ministro dell'interno Maroni di non avergli fatto sapere che Belsito rubava. In realtà poteva chiederlo alla moglie, perché le intercettazioni sono tra Belsito e Manuela Bossi, nelle quali Belsito dice, per esempio, guarda, parla con Manuela Bossi, è una moglie di Bossi, parliamo di federalismo, riforme, ma lo sai che sono veramente preoccupato, sono andato a spulciare quello che stanno facendo, il niente, io mi vergogno, dice l'ex tesoriere della Lega al telefono con Manuela Bossi. Parla per esempio di Calderoli, quell'asino bardato da generale, è un asino bardato il mio ministro, è veramente un asino, devo togliermi la soddisfazione di dirglielo, non riesco a capire come un asino del genere sia diventato ministro. Emanuela Bossi, pensa, se quello è diventato ministro, ancora Belsito, io un giorno posso fare il presidente. Il Papa, gli risponde Emanuela Bossi. Già, il Papa, io lo guardo e dico, cosa ha fatto alla semplificazione normativa? Ah, non lo so, risponde Emanuela Bossi. Cosa ha fatto? Non lo sa nessuno, ancora Emanuela Bossi. Insomma, Claudio Gatti dice, sarebbe bastato chiedere a sua moglie, alla moglie di Bossi, a Umberto, magari lei gli avrebbe detto quello che pensava delle persone di cui si era circondato, come dimostrano queste intercettazioni. Vabbè, ci fermiamo qui. Sì, il tempo è scaduto e allora è tempo di giornale radio.